Va bene, allora cominciamo puntualissimi. Io sono Buminguno, lui è Mariano Tomatis e siamo qui per presentare un suo libro che in realtà è duplice, perché all'uscita, diciamo così, ufficiale di Incantagioni per Nero Editions si è affiancata in tempo reale un'uscita autoprodotta che è praticamente la prosecuzione di Incantagioni in forma di rassegna delle fonti primarie utilizzate da Mariano per scrivere il libro, immagini, materiali integrativi, extra, indice dei nomi e tutto quanto, che si chiama Incantagioni, il dossier. Quindi un libro è edito da una casa editrice vera e propria, Nero Editions, e l'altro invece è un lavoro di alto artigianato, di quelli a cui ci ha abituati Mariano in questi anni, un libro oggetto molto bello, tra l'altro. E di fatto i due libri sono in continuità l'uno con l'altro, tant'è che il dossier inizia dal numero di pagine immediatamente successivo all'ultimo di Incantagioni, e quindi c'è la cosa spiazzante che quando apri il dossier, sin dalle prime pagine c'è 279, 281 e così. Ecco, e abituiamoci appunto a questo tipo di obliquità, di effetti sorprendenti, di manifestazioni inattese, perché di questo stiamo parlando. Allora, però io la prendo un po' alla lunga, no? La prendo un po' alla lunga perché la prima volta che abbiamo fatto una presentazione assieme eravamo proprio qua, e a Modo InfoShop nel 2014, e presentavamo due libri, uno nostro di Wuming e uno di Mariano, che avevano lo stesso acronimo, LADS, l'armata dei sonnambuli e l'arte di stupire. Avevamo deciso di presentarli assieme per creare un effetto perturbante legato all'elemento magnetico, ipnotistico, mesmerico del nostro romanzo L'armata dei sonnambuli, che è grazie a quello che abbiamo cominciato a collaborare. Allora, la prima volta che ho sentito parlare di Mariano è stato qui dentro, anche qua, non qui ma là, cioè vicino alla cassa. Ero con Loredana Lipperini, avevo appena presentato un suo libro, e a un certo punto lei mi fa: ma tu hai mai letto i libri di Mariano Tomatis? Gli ho detto no, non conosco. Guarda, devi leggerlo. E mi dico proprio la frase testuale, non me la dimenticherò mai, è: siete fratellini. Quindi con, addirittura col diminutivo, non ho fratelli, siete fratellini. Allora questa cosa mi ha incuriosito, ho poi saputo che aveva detto una cosa analoga anche lui, e mi sono procurato un po' di libri di Mariano, ed effettivamente ho visto subito le affinità, i percorsi paralleli tra noi e lui riguardanti la meraviglia, l'incanto, il non accontentarsi di un pensiero critico tutto schiacciato sulla razionalità, e il tentativo di salvaguardare anche nello smontare qualcosa, un fenomeno, eccetera, di comunque preservarne l'effetto di incanto, andare a cercare il motivo recondito per cui quel fenomeno ha funzionato, ha avuto degli effetti, delle ripercussioni nella società. E tutto questo però non trasmesso da una scrittura teorica, teoretica, ma da storie, un accumularsi di storie legate alla magia, legate all'illusionismo. E Mariano è un mago, nel senso di illusionista, è uno storico dell'illusionismo, e ha sempre di più sviluppato questa dimensione del suo lavoro, è diventato un topo d'archivio impressionante. Appunto, abbiamo mostrato prima che gira con un giornale del 1853 originale, e da diversi anni ricostruisce la storia del mentalismo, cioè di quella branca dell'illusionismo che nega di essere tale, cioè del simulare poteri della mente. Simulare poteri della mente o incredibili capacità di lettura del linguaggio del corpo, incredibile abilità nell'applicare a un'interazione tra persone nuove scoperte scientifiche, sono tutte in realtà narrazioni di copertura, perché dietro ci sono dei giochi di prestigio. Chi ti legge nella mente, chi legge il messaggio nascosto, chi riesce a farti compiere una determinata azione usando presumibilmente solo i poteri della mente, chi ha una memoria incredibile a tal punto che non può avere una spiegazione semplicemente nelle sue doti umane, deve esserci qualcosa di extrasensoriale. Tutte queste cose in realtà sono riproducibili con un trucco. Ma il mentalismo basa la propria narrativa sul fatto di negarlo questo. C'è un superomismo di fondo nel mentalismo, che è appunto il mitologema è quello del superdotato, non nel senso fallico, ma siamo lì, cioè nel senso che comunque essere dotati di poteri sovrannaturali, come nella narrativa più vecchia della lettura del pensiero, o essere più ricchi di fluido magnetico rispetto ad altre persone, come nella narrativa che si è affermata dopo Mesmer, o essere dei geni della programmazione neurolinguistica, come nella narrativa che va più in voga oggi. Tutto questo alla fine non fa che affermare il mitologema del superuomo, no, del superuomo che riesce con la propria volontà e con i propri poteri a far compiere delle azioni ad altre persone. Ecco, questa narrazione superomistica Mariano ha cominciato a smontarla anni fa e non si è accontentato di smontarla. Lui ha scritto un manuale di mentalismo che di fatto è una critica al mentalismo, te lo leggo nella mente, che attualmente penso sia il suo bestseller, perché molti che vogliono diventare mentalisti lo comprano, ma lui in realtà dietro però fa un'azione molto sottile ed è stato il suo primo libro che ho letto. Ha raffinato sempre di più la sua lettura e ha avviato questo progetto Mesmer, che è un progetto cross mediale, storiografico, performativo, geografico, psicogeografico, che si avvale di lavoro d'archivio, autoproduzioni editoriali, escursioni a tema, guide turistiche stravolte, video e tutto quanto per cercare di partendo dal nocciolo che è la storia del mentalismo, cercare di capire la situazione in cui siamo in buona sostanza. Noi oggi siamo effettivamente in balia di processi, sempre di più in balia di processi che vanno oltre la nostra capacità non solo di controllo, ma anche di immaginazione. Sui social noi pensiamo di compiere liberamente delle azioni che in realtà sono completamente sospinte da algoritmi, da scelte che sono state fatte a monte tramite degli automatismi. E ragionare oggi sul controllo mentale, sulla simulazione del controllo mentale, sulle narrative che giustificano il controllo mentale con una prospettiva multidisciplinare che preservi anche un nocciolo poetico è importantissimo anche proprio politicamente, per usare un avverbio che potrebbe sembrare strano, sentire proferire in un discorso che parla appunto di magia e cose del genere, ma è questa anche l'intrinseca politicità della magia, dei maghi, della storia, di come i maghi hanno raccontato, dietro quali veli hanno raccontato il loro lavorio per cercare sempre nuovi trucchi, che tipo di ideologia veniva veicolata dalle narrazioni che trovavano, tutto questo è intrinsecamente politico. Ora, negli ultimi anni, Mariano ha sviluppato sempre di più una prospettiva che potremmo dire di critica di genere. Ed è così che nasce Incantagioni. In realtà, uno dei primi temi su cui ci siamo confrontati è stato proprio questo, perché già all'epoca in cui ci siamo conosciuti, lui aveva girato un documentario che si chiamava Donne a metà, si chiama tuttora Donne a metà, si trova in rete, basta digitare il nome, in cui ci metteva di fronte alla nostra acquiescenza, all'involontario consenso che noi abbiamo sempre dato fin da quando eravamo piccoli e piccole, perché è una cosa che riguarda uomini e donne, a una scena di sevizie e femminicidio che noi abbiamo consumato fin da quando eravamo piccoli ridendo e applaudendo, ed è il trucco della donna segata in due dai prestigiatori. L'abbiamo visto fare a Silvana, l'abbiamo visto fare a tutti fin da piccolo, dando per scontato una scena che, se guardiamo con un minimo di distacco, c'è un uomo che sta esercitando tutto il proprio potere, riverito, ammirato, applaudito, vestito di tutto punto, spesso in smoking o in frac addirittura, che ha alla propria mercé una donna seminuda che fa tutto quello che lui le dice. Ad un certo punto lui la chiude in una cassa, che è già la sua bara, fa passare dentro delle lame per far vedere, no, che cosa sta per fare. Lei sorride mentre lui fa questo, sta esercitando su di lei, di fatto, extradiegeticamente e diegeticamente, cioè dentro e fuori dalla rappresentazione, una violenza psicologica e fisica. La mette in una situazione di costrizione, dopodiché la sega in due. Questo trucco non è innocente, questa rappresentazione non è innocente, sta veicolando tramite tutto, tramite gli attrezzi di scena, tramite i segni che veicola, tramite la prossemica, il rapporto tra i due corpi, la vicinanza e la distanza che tengono i due corpi tra loro, tramite il contrasto tra lui vestito di tutto punto, agghindato, elegantissimo, probabilmente anche profumato se lo vedessimo dal vivo lo spettacolo, e lei invece discinta e soprattutto servizievole, sta trasmettendo l'ideologia dominante questo spettacolo e sta praticamente facendo spettacolo di un femminicidio. Ed è così che è nato, perché Mariano, per fare il documentario, si è avvalso di ricostruzioni storiche che dimostrano che questo trucco, questo numero di magia, è stato inventato proprio in esplicita e dichiarata polemica con le donne che nell'Inghilterra dei primi decenni del Novecento chiedevano il diritto di voto, e in particolare contro Sylvia Pankhurst, che viene proprio nominata come potenziale vittima del numero dal mago che l'ha inventato, che l'ha proposto per la prima volta, dicendo: sfido Sylvia Pankhurst appunto a farsi segare da me. No, quindi nasce come affermazione di misoginia e di antifemminismo il numero. Questa dimensione però non è mai stata problematica ai nostri occhi, e siamo cresciuti vedendolo, questo trucco, senza mai decrittarlo, accettando l'ideologia e la divisione di ruoli e la simmetria di potere che veicolava. Quindi all'epoca Mariano decostruiva un trucco del repertorio classico dell'illusionismo più mainstream, dove tu vedevi proprio degli oggetti, era un trucco tangibile, concreto, no? Con delle macchine di scena che lavoravano per produrre l'illusione della magia. Se noi però trasferiamo questa critica e questo approccio al mentalismo, il mentalismo appunto che non ti fa vedere macchinari di scena dove tutto è nascosto, e perché deve essere simulato un qualcosa di totalmente, prettamente immateriale, addirittura spirituale, comunque mentale, come dice il nome, il mentalismo, anche lì troviamo la problematica di genere, perché nella figura dell'ipnotizzata, della sonnambula, come ci è stata tramandata, della donna che appunto veniva portata in questo stato di coscienza modificato, dove diventava chiaroveggente, diventava telepatica, eccetera, eccetera, anche lì noi possiamo ritrovare narrative, narrazioni pigre, rappresentazioni col pilota automatico che praticamente non fanno altro che riprodurre le dinamiche di potere del resto della società che hanno intorno. Ma se noi cominciamo ad alterare lo sguardo e andiamo in cerca di donne che sottilmente hanno sovvertito il ruolo di sonnambula, possiamo trovare molte sorprese. possiamo trovare addirittura delle forme di lotta individuale messe in campo da donne che praticavano appunto il mentalismo, spacciandolo per appunto presentandolo come qualcosa di scientificamente fondato e quant'altro, e in questo interpretare il loro ruolo di sonnambula, di ipnotizzata sulla scena o in sessioni private, eccetera, eccetera, in maniera molto, molto subdola e molto sottile sono riuscite a in qualche modo resistere alla pressione della società su di loro, a rifiutare ruoli che venivano, ad acquisire dei poteri, anche fossero anche solo dei micropoteri, ma comunque hanno interpretato quel ruolo in una maniera di cui noi non ci accorgeremmo se guardassimo i loro numeri con uno sguardo pigro, convenzionale, una visione tutta frontale. Cambiando le angolature e andando a leggere tra le righe dei resoconti di quelle sedute, di quelle séance, di quei numeri di magia, di quegli spettacoli di mentalismo che all'epoca appunto veniva semplicemente chiamato magnetismo, Mariano ha trovato delle storie incredibili. Ha trovato delle storie incredibili e alcune le ha raccolte in questo Incantagioni di cui ci sta per parlare. Io non vado nello specifico delle storie per adesso, perché questo deve far lui, cerco di inquadrare più o meno il contesto e il percorso da cui il libro nasce. Noi nell'Armata dei Sonnambuli, il libro che ci ha fatto poi appunto iniziare a collaborare, all'epoca facevamo delle presentazioni che tutte insieme erano chiamate Laboratorio di Magnetismo Rivoluzionario, dove già in nuce c'erano tutte queste tematiche qua. Nell'Armata dei Sonnambuli noi ci occupiamo del fenomeno appunto del mesmerismo, del magnetismo, dell'epoca delle sonnambule, perché la figura della sonnambula, nonostante l'aggettivo sostantivo sia al maschile nel titolo del romanzo, in realtà la figura della sonnambula è molto importante nel nostro romanzo. Ecco, la figura della sonnambula ha in qualche modo perseguitato l'immaginario della seconda metà del Settecento e di buona parte dell'Ottocento. C'era questa figura, oggi si fatica a riimmaginarne la centralità delle sonnambule, di queste donne ipnotizzate che manifestavano poteri particolari, si occupavano i giornali, se ne parlava nei salotti di tutte le città europee, venivano scritti libri su libri, confutazioni di confutazioni, libri di 1000 pagine, di 700 pagine, di 800 pagine, che venivano buttate fuori di getto con la velocità con cui si scriverebbe un pamphlet. Noi rispetto a oggi, ai nostri tempi iperaccelerati, abbiamo un'idea dell'industria culturale dell'Ottocento come di un'industria lenta. Non è vero, era un'industria incredibilmente veloce, uscivano gli instant book come escono oggi, semplicemente probabilmente era necessario più lavoro vivo in tipografia per mantenere quei ritmi. Le tipografie avevano decine e decine di dipendenti, no? Chiaramente quando non hai le tecnologie avanzate per fare una cosa, c'è l'olio di gomito che le deve sostituire. Però i ritmi con cui uscivano questi pamphlet, anche che pamphlet paradossali, anche di 500-600 pagine, con cui avvenivano queste disfide che sembravano dei dissing tra rapper, no? Tra scienziati che si confrontavano sulle sonnambule, è impressionante, era un getto continuo, e in tutte le città d'Europa si esibivano magnetizzatori con le loro sonnambule, e su queste sonnambule ci si scassava in maniera pazzesca, ci si strappavano i capelli. Delle sonnambule rimanevano, se noi vogliamo mantenere, no, il frame tradizionale che poi tra poco Mariano smonterà, venivano abbindolati dalle sonnambule i più grandi VIP dell'epoca, anche scienziati che hanno vinto il premio Nobel, e addirittura Re Carlo Alberto ad un certo punto fu abbindolato, poi facciamo capire meglio, no, quanto possa essere falsante usare solo verbi così, turlupinare, raggirare, abbindolare e quant'altro. Però in quel caso lì effettivamente Carlo Alberto fu effettivamente abbindolato da una veggente, Carlotta Cerrino, di cui racconta Mariano in Incantagioni. Questa figura della sonnambula appunto veniva dipinta, veniva rappresentata, veniva raccontata, veniva confutata, veniva discussa, si spaccava il capello in quattro e ovunque c'erano le sonnambule. Bisogna prima raccontare questo, per poi calarsi in un mondo dove spesso alle donne, soprattutto di classi basse, quella di diventare una sonnambula, insomma, cioè per loro poteva essere una possibilità di trovare vie di fuga a una condizione subordinata e vessata, tramite una via traversa che oggi non riusciremmo più a identificare, a tracciare e a seguire se non ci fosse uno come Mariano, che fa un lavoro di scavo archeologico e genealogico e consulta le fonti d'archivio e le mette in risonanza e in contrasto l'una con le altre e riesce ad interpretare dei resoconti di carriere intere di sonnambule in una maniera assolutamente, cioè, sorprendente e anche spiazzante, perturbante. Incantagioni, oltre che una raccolta di racconti di non fiction ragionata, commentata, è anche un trattato, in inglese si dice in disguise, un trattato camuffato di narratologia antimaschilista, di narratologia non maschiocentrica, che fa molto bene leggere a noi maschi perché continuamente ti rovescia l'angolatura, ti fa vedere il controcampo, ti rende periferico dove pensi di essere centrale. Ad un certo punto paragona il proprio lavoro, Mariano, a una presa di posizione che poi lui riporta di, com'è che si quella sull'orgasmo, come si chiama lei? Ellie Crook. Ecco, Ellie Crook, che ha scritto qualche anno fa un articolo che ha fatto molto discutere, è "il mio orgasmo non ti appartiene, smetti di dire che tu m'hai fatto venire". È importante questa roba qua, perché il maschio tende sempre a dire "allora t'ho fatto venire, sono venuta, però non è che tu m'hai fatto venire", capito? Perché altrimenti sembra che, capito, sia una prerogativa tua di farmi venire, no? Lui paragona, Mariano, questo raccontare le sonnambule capovolgendo lo sguardo a questa sovversiva operazione di dire "non sei tu che m'hai fatto venire". E per un maschio è importantissima come cosa, perché veramente ti rinnova lo sguardo, ti fa vedere le cose da un altro punto di vista. È prezioso il lavoro che sta facendo Mariano, arrivando appunto a una sorta di autopedagogia femminista del maschio, però passando attraverso la storia dell'illusionismo, appunto a proposito di sguardo obliquo, di vie traverse, di direzioni e angolature spiazzanti. Quindi dopo questa intro in cui ho messo tantissima carne al fuoco e dopo insomma che vi ho più o meno preparati e preparate a quello che il libro racconta, do la parola a Mariano Tomatis. Grazie. Grazie per questa bella introduzione. Effettivamente questo libro non esisterebbe se voi non aveste scritto L'armata dei sonnambuli, perché avevo, prima del vostro romanzo, scritto un libro sulla storia del mentalismo senza accorgermi che il mesmerismo era punto da cui partire. Io la prendevo più di recente, da quando il termine mentalismo era nato, è un termine più tardo, ma il vostro libro mi ha fatto capire che per seguire il mesmerismo nell'Ottocento dovevo cercare invece nei vecchi giornali il magnetismo animale a teatro. Ed effettivamente questo documentario, che ci ha anche fatti conoscere Donne a metà, è stato un po' l'inizio di un percorso che mi ha fatto mettere in discussione il modo in cui noi maschi mettiamo in scena l'illusionismo. Era un po' un discorso tra maschi, perché mi rivolgevo ai miei colleghi, che sono quasi tutti maschi, appunto. Ed era un po' un chiederci a vicenda: ma davvero vogliamo continuare così? Cioè, non riusciamo a immaginare storie altre, non riusciamo a mettere in scena qualcosa di diverso. E alcune compagne mi hanno detto: preziosissimo che voi facciate questo discorso, non vi preoccupate, nel frattempo ci pensiamo noi a tirarci fuori da questa roba. E ho pensato in effetti che se mai avessi una figlia che volesse fare l'illusionista mi chiedesse: papà, ho delle antenate, insomma, che io non avrei saputo che cosa risponderle. Per cui mi rendevo conto che se in Donne a metà avevo disegnato bene le donne come vittime, il passo successivo sarebbe stato: visto che io mi occupo di storia del mentalismo, basta occuparsi di maschi, iniziamo a occuparci di donne. Anche un po' sull'idea che voi avevate avuto quando avevate interrotto la collaborazione con GQ, come avevate scritto una serie di biografie maschili, poi nel momento in cui stavate per passare a quelle femminili vi avevano tranciato la serie di articoli. No, ora che iniziava il bello e che siete poi riusciti a riprendere in due canzoni del Booming Contingent. Per cui ho detto: proviamo a occuparci delle donne. E Incantagioni è il frutto di questi 9 anni in cui ho scoperto che appunto le donne tutt'altro che vittime dei maghi maschi. Ci sono nel passato vari esempi di donne che invece hanno capovolto quel tavolo e non hanno accettato minimamente di finire sotto la sega del mago. E ho trovato proprio nella scena magnetica uno spazio dove costoro hanno potuto veramente darcele seriamente. Perché quando Mesmer ipotizza l'esistenza del magnetismo animale, per la prima volta nella storia i fenomeni paranormali sembrano accessibili con delle metodologie scientifiche. Fino ad allora, per trasmettere pensiero, far apparire degli oggetti, eccetera, bisognava rivolgersi agli angeli, ai demoni, fare rituali metafisici. All'improvviso, con Mesmer, c'è l'impressione, la scienza incontra questa teoria medica, che viene lanciata nell'ambito medico, Mesmer era un medico, c'è l'impressione che con la scienza, con delle procedure scientifiche ripetibili, si possa aprire il terzo occhio. Perché un magnetizzatore imponeva le mani a una sonnambula, raramente a un sonnambulo maschio, e questa persona perdeva in qualche modo i sensi, entrava in questo misterioso stato tra il sonno e la veglia chiamato sonnambulismo, e qui succedevano cose impossibili, perché costei leggeva nel pensiero del magnetizzatore, vedeva attraverso i muri, poteva leggere i libri chiusi, sentiva i gusti con l'ombelico, appoggiandole un pezzo di pane, diceva c'è pane col miele, vedeva le carte infilate quando le venivano infilate sotto la canottiera, quindi riconosceva la donna di fuori quando le era infilate nella manica. Era davvero incredibile, per cui per un certo periodo la scienza entrò in questo trip. Che la magia era alla portata di tutti, perché basta con le vecchie credenze metafisiche, questa è scienza, la chiaroveggenza, la telepatia, la psicocinesi, tutto quello che possiamo immaginare di magico è alla portata della scienza. Quando quindi la donna entrava in quello stato, l'uomo diventava un balletto, non serviva più a nulla. Lui era colui che faceva entrare in quello stato la donna, quindi c'era questa gerarchia, ma era una gerarchia che all'improvviso si capovolgeva nel momento in cui la donna entrava lì dentro, in questa zona del crepuscolo, dove l'uomo diventava inutile. Decideva quindi la donna. Ovviamente l'uomo poteva decidere quando farla uscire, quindi aveva un po' il controllo di questa radio, l'accendeva e la spegneva a volontà, ma la donna acquisiva capacità che superavano di gran lunga quelle dell'uomo. Quando questa cosa passa nel mainstream, sulla bocca di tutti, i giornali ne parlano, eccetera, nasce anche proprio una richiesta pubblica di assistere a cose del genere. E il trattamento medico lascia spazio all'intrattenimento, perché diventa qualcosa che la gente vuole vedere a teatro. A teatro è molto difficile spettacolarizzare la lettura del sesso del nascituro nella pancia di una gestante, perché poi non c'è il colpo di scena, e voilà, era davvero un bambino, perché lo spettacolo dovrebbe durare 7 mesi, e quindi si sceglie di utilizzare strumenti diversi come un mazzo di carte, un libro chiuso da leggere, eccetera. Per cui il mentalismo teatrale nasce come evoluzione di una pratica medica, cioè medicalmente le sonnambule venivano usate come ecografi portatili, che il magnetizzatore portava con sé perché altrimenti non poteva diagnosticare le malattie, quindi c'era una interdipendenza tra i due sessi che era interessante. E chiaramente mi sono detto, quella era una scena molto più complessa rispetto a quella oggi, appunto, della donna segata in due. Non posso dubitare che qualcuna ne abbia approfittato. E un'amica che, quando le ho raccontato questa storia, mi ha detto: ah, guarda, questa cosa che l'uomo può magnetizzare la donna e avviene solo in quella direzione, mi ricorda tantissimo questa bubola maschile per cui ci vuole proprio un pene per far venire una donna. E quando è nato il vibratore, per voi uomini è stata una notizia scioccantissima. E infatti il terzo capitolo, quello ambientato a Lione, dove sono andato a cercare la prima sonnambula di cui si abbiano tutti i diari, delle trascrizioni delle sue visioni, vado a Lione per cercare una sola parola, che è la parola sola. Sola, perché a un certo punto in una delle sue visioni costei si rende conto ormai di avere in pugno i massoni che tutti i giorni vanno a prenderla a casa, la portano lì e la mettono in questo stato perché descriva loro l'aldilà e loro trascrivono ogni sua parola perché il loro obiettivo è pubblicare un atlante del purgatorio e del paradiso. E lei, come una brava autrice di una serie TV, si inventa le cose più incredibili, non ha niente, cioè, davvero niente da invidiare a Tolkien perché propone gerarchie angeliche, demonologiche, linguaggi, scene, lasciando ogni volta sul più bello, alla fine di ogni puntata, il climax, però poi domani dovete riportarmi qui. E quindi lei praticamente per un buon 3 anni si fa mantenere da costoro, fidelizzandoli come si fidelizzano gli spettatori di una serie TV e come si convincono i produttori di una serie di Netflix a finanziare la prossima stagione. E un giorno si stufa di questa cosa e dice: "Beh, voi spiriti davvero volete che da domani io mi magnetizzi da sola?" E naturalmente la reazione del pubblico è come quando arriva sulla scena il vibratore, cioè oddio, e quindi la nostra bacchetta non è più l'unico strumento con cui mettere la donna in stato di sonnambulismo. Ho evidenziato nella storia del sonnambulismo momenti come questo, che sono particolarmente imbarazzanti per noi maschi perché ci costringono oggi a fare i conti con i rapporti che abbiamo con l'altro e gli altri generi, e che però lì, in quei momenti, ovviamente, per me era facile immedesimarmi in costoro, e al contempo epico e grottesco, perché appunto sono tutte storie che tengono insieme questi due aspetti. Ho molta poca fantasia, non riesco a inventare storie, quindi sarei un pessimo romanziere, non ho mai scritto un romanzo in vita mia. Ho deciso, insomma, da appassionato di storie, di cercare quindi nella storia dei fatti veri, e ho scoperto che quando uno pesca dalla storia ha più libertà rispetto a un romanziere, perché un editor mi censurerebbe certe storie perché mi dice: "Qua siamo un po' troppo oltre, cioè se questo fosse un libro per bambini avrebbe senso, puoi mettere in scena una cosa così assurda." Invece, poi pescando fissandosi come obiettivo di raccontare solo storie vere, si può eccedere perché veramente la realtà supera la fantasia. Io volevo fare con voi un esperimento per raccontarvene una. Ne ho 6 in mente, visto che 6 sono le sonnambule e 6 sono le facce di un dado, tiriamo un dado e quello che viene raccontiamo quella storia, siete d'accordo? Vi piace? Ho lì due dadi, ne basterà uno perché in realtà le sonnambule sono 6. Ora ti chiedo di buttare questo dado nel bussolotto e di guardare che faccia è venuta fuori. Che cos'è? 5. 5. Allora, la quinta è Prudence Bernard. Tra l'altro, è stata lei che voleva uscire a tutti i costi e mi ha fatto usare un dado con tutti i 5. Questo è esattamente il dado che lei mi avrebbe chiesto di usare. Io, per raccontarvi questa storia, che ripeto, un editor serio mi avrebbe censurato, vi faccio vedere questo oggetto. Quanti di voi o quante di voi lo riconoscono? Non ci sono ventenni in sala, neanche io lo riconoscevo e non l'avrei mai riconosciuto se non avessi letto la storia di Prudence Bernard. Questa è una lumaca telefono. A One Piece. One Piece, Sì, bravissimo. telefono, no? Beccato. Ok, One Piece. Questo arriva dalla serie anime e manga giapponese One Piece. È un telefono lumaca. Perché mettere insieme questi due, un animale e un telefono, è mo molto strano. Da dove arriva questa immagine? Nessuno lo sa più, l'ho scoperto e quando l'ho scoperto sono andato a Parigi perché volevo fotografare l'unico ritaglio che c'è alla Biblioteca Nazionale dove si parla di telepatia escargotica. La storia è questa: un tizio, un avventuriero parigino, propone ai giornalisti, radunandoli in una sala come questa, un brevetto. Lui vuole brevettare un telegrafo senza fili, ben prima che Marconi scopra le onde radio, basato sul magnetismo animale. Tecnicamente sono due ruote. Simili a quelle delle normali bussole, che invece di avere solo quattro alloggiamenti per i quattro segni cardinali, ha 21 alloggiamenti, uno per lettera dell'alfabeto, si procura 42 lumache, le accoppia due a due facendole accoppiando, facendo in modo che ciascuna coppia faccia l'amore, e che durante questo momento si scambino dei liquidi, dei mistici, metafisici, magnetismo animale, appunto. Questo legame che si forma tra ciascuna coppia viene poi evidenziato da una letterina che viene attaccata sul dorso di ciascuna, per cui ci sono le due dell'A, le due della B, le due della C, eccetera. Ciascuna viene messa nel suo alloggiamento, perché questo Benoit scopre che accarezzando il dorso di una delle due lumache, l'altra vibra all'unisono, a qualunque distanza si trovi, dopo che si è creato questo collegamento telepatico, mistico, Erotico. erotico. Per cui il suo ragionamento qual è? Se noi teniamo una bussola qui, è una bussola, la bussola escargotica la chiamava, e uno la mettiamo a New York, io posso mandare un messaggio, una lettera alla volta, come si fa durante le sedute spiritiche o come si fa con il telegrafo normale, però il telegrafo naturalmente richiede il filo, invece una volta che vengono accoppiate le lumache, queste mantengono questo collegamento. Immagino, non, è una mia idea di evoluzione, se una terza lumaca viene associata a una del gruppo della A, magari si possono distribuire vari esemplari. Una cosa meravigliosa di questa conferenza stampa è che lui ipotizza in anticipo gli orologi, gli smartwatch, perché dice: nel momento in cui riusciremo a trovare delle lumache abbastanza piccole, potremo avere naturalmente sul quadrante dell'orologio e mandarci dei messaggi. Qua siamo nel 1850 e questa cosa ovviamente viene finanziata. E appena lui fa una dimostrazione pubblica di questa cosa, che funziona in parte. Ho raccolto anche che la prima parola spedita era ginnasio, e lì sbagliano due lettere, però la cosa poi viene fatta passare come un piccolo problema di comunicazione tra chi poi riferiva le lettere. E appena lui ha i soldi per finanziare la produzione in serie di questo oggetto, sparisce con la grana, allora una parte naturalmente dell'opinione pubblica e dei giornali capisce che era una truffa, iniziano a prendere in giro chi c'era cascato, chi aveva finanziato la cosa. L'altra parte di Parigi resta in attesa di vederla, la vuole vedere a tutti i costi, perché ha una sua credibilità. Non lo so, oggi quando parliamo di meccanica quantistica ed entanglement stiamo parlando esattamente dello stesso fenomeno, cioè che a qualunque distanza poniamo tra di loro due elettroni, ciascuno conserva lo spin dell'altro, per cui se io ruoto, se riuscissi a ruotare un elettrone qui, su un'altra galassia, quell'elettrone immediatamente girerebbe nella stessa direzione. E ancora oggi i fisici si chiedono come questa comunicazione avvenga, perché è wireless, apparentemente è più veloce della luce, quindi questo pone dei problemi, e alcuni dei computer quantistici moderni si basano proprio sull'entanglement. Per cui non è così impossibile che questo avvenga, che fosse vero o no, era dibattuto. Ecco dove si colloca il mentalismo. Prudence Bernard, che aveva ormai una carriera decennale alle spalle, una sonnambula di Tolosa, sente nell'aria che lì c'è uno spazio credibile su cui i giornali discuteranno, e con il marito apre il Salon Lassaigne sotto il Passage de Jouffroy a Parigi, dove sono stato quest'estate, mi sono fatto una foto davanti a, che adesso è un'agenzia di informatica, quindi si occupano di telecomunicazioni, mi piace da morire quest'idea, e propongono come clou della serata dei loro spettacoli di mentalismo la telepatia escargotica. Lei e il marito, che naturalmente consumano perché sono sposati, creano quotidianamente, rinnovano quotidianamente questo fluido che li rende telepatici, e presentano i numeri di trasmissione del pensiero che fino al giorno prima attribuivano a tutt'altro nella chiave della trasmissione del pensiero delle lumache. E nel corso del Novecento qualche sceneggiatore di One Piece leggerà chissà dove in Giappone questa storia e crea Dendemushi, che è questa. E nessuna lettrice o lettore di questa storia fumetti sa che l'origine è a Parigi, nel 1850, grazie a questa donna che regolarmente si inventava le cose più assurde per millantare doti paranormali. In particolare c'è una rincorsa, come in un gioco a guardie ladri, tra lei e la scienza, gli scienziati e i giornali alleati, perché lei proponeva un numero, l'andavano a vedere, dicendo che naturalmente era basato sulla telepatia, si faceva bendare e si metteva delle gocce d'olio sulle tempie in modo che la benda cadesse un po' e lei potesse comunque sbirciare. Quando se ne accorge il pubblico, sui giornali esce il trucco, lei si dice: ok, devo alzare il tiro, sono stata beccata, non basta più questo, devo inventarmi qualcosa di più sottile, quindi usa una benda più spessa ma un po' più trasparente. Una volta che viene sgamata, perché poi la gente va lì pronta a cercare l'olio e non lo trova, allora devono alzare il tiro e cercare di capire, e quindi la scienza deve fare un passo oltre e dire, i debunker naturalmente, e no, questa volta ha utilizzato la benda. Fa, allora ne mettiamo due. Allora lei metteva la benda e anche un sacco sulla testa. Perché? Perché il sacco nascondeva il fatto che sotto il sacco si poteva togliere la benda e vedere chiaramente. Per cui insieme la gente provava ed erano ultra opachi, ma il sacco nascondeva che le si spostava la benda. Quando i giornali scoprono che il trucco era questo, credono di averla sbugiardata definitivamente e lei, che ovviamente è sempre sintonizzata sulla incredulità, alza il tiro, arriva con un sacchetto di sabbia in teatro. Chiama della gente del pubblico, si fa spalmare questo fango sugli occhi, aspetta che si asciughi, diventa praticamente una maschera di terracotta impenetrabile e lascia gli scienziati a chiedersi come diamine ha fatto a vederci nonostante avesse questa cosa. C'è un continuo alzare la posta e io lo trovo strepitoso questo tentativo comunque di sfuggire alle guardie che tentano di bloccarti qui e lei è già da un'altra parte e allora prova a rincorrere ed è ancora da un'altra parte. E trovo che sia divertente, da un lato, ricostruirlo, cercando, mettendo in ordine gli articoli di giornali che si susseguono, perché c'è questo tentativo prometeico di dire abbiamo capito come fa, e non ci riescono mai perché lei è sempre un passo più avanti e inventa sempre qualcosa di diverso. E al contempo, su un piano diverso, mi sembra una resistenza costante a un mondo che ci dice che, dovrebbe, che le cose sono così e non cambiano, perché è veramente un tentativo di cercare sempre una via d'uscita inaspettata, sorprendente, originale, ed è una lezione di vita che, come dire, va anche al di là dei generi, perché però in questo caso che fosse in mano una persona del genere, il top mi sembra quando lei, approfittando del fatto che non si mettono le mani addosso a una donna, a un uomo si può fare, si può perquisire, ma una donna non va toccata, si era comprata in una merceria di Parigi un corpetto magnetico che veniva venduto per curare le sciatiche, il mal di schiena, cose che ancora oggi si trovano in vendita pur non avendo nessuna base scientifica di funzionamento. Lei non l'aveva comprato per guarire, ma perché avvicinandosi alle bussole le faceva deviare. E quindi ho trovato e l'ho messo nel dossier questa relazione di un medico milanese, perché lei si esibita sia a Torino sia a Milano, tra gli altri posti, che dice: io sono entrato convinto che avrei assistito a dei giochi di prestigio, e invece questa mi ha sconvolto, questa spostava col pensiero la bussola, e questa cosa non è spiegabile. E sotto il corpetto c'era il busto del dottor Perfino Nicola. Schopenhauer ci è cascato. Schopenhauer, in uno dei suoi libri, dice: la forza di volontà ha un'energia che voi non potete immaginare, non avete visto in azione Prudence Bernard. Tutta la filosofia di Schopenhauer distrutta. Dal corpetto magnetico. Interrotto? No, no, Ah. possiamo divagare. No, poi una fissa che ho è che ho capito che per stupire in particolare chi queste storie ormai le frequenta da tempo è di assicurarmi che non ci sia traccia di queste persone su Wikipedia. E poiché non c'è traccia ancora, naturalmente da domani qualcuno non lo farà, insomma, ovviamente la cosa mi lusinga per loro, per queste sonnambule, nessuna la troverete su Wikipedia ancora. E lì è un po' un segno che intanto bisogna fare un po' di più di fatica per rintracciarle, e che sono storie davvero ben nascoste che vengono a galla adesso per la prima volta. Quindi ti muovi proprio, vai a cercare documenti negli archivi, vecchio metodo, insomma. Vecchio metodo, sì, proprio il cartaceo anche. C'è molto di digitalizzato. Sì, io ricordo che una volta, a una presentazione dell'Armata, a domanda avevate risposto. E mi aveva colpito e mi sono reso conto che era così, che praticamente la rivoluzione francese è mappata giorno per Sì, giorno perché tutte le tutto riviste a digitalizzato. me francesi sono disponibili online e da un po' di tempo Google sta convincendo le biblioteche italiane a mandargli i annate di giornali e in cambio restituisce i PDF. A volte sono non visibili in Italia, quindi bisogna usare una VPN, ma si riescono a trovare e si trovano le annate intere delle riviste italiane con cui ricostruire queste storie. Per esempio, qui a Bologna, la sonnambula per eccellenza era Anna Bonazinga, sposata con Pietro D'Amico. Al cimitero Certosa. della Certosa c'è il suo busto, è segnalata come la chiaroveggente più celebre del secolo XIX. C'è ancora lei, il marito è a sinistra, lei è a destra, il marito è ritratto con i suoi baffoni, eccetera. Lei non ha le pupille, per cui non si capisce dove guarda, proprio perché, essendo in stato di sonnambulismo, vede dove noi non vediamo. È un busto splendido, credo uno dei rarissimi esempi di statue funebri rimaste in questo stato perfetto, addirittura con la scritta, che è la più grande chiaroveggente del secolo XIX. Oggi non possiamo credere che sonnambula fosse un job title, cioè fosse scritto sul biglietto da visita. Che lavoro è? Chi è sonnambulo? Si sveglia di notte e si trova in cucina. Invece all'epoca, proprio per le capacità di vedere il futuro, vedere sotto la pancia dove era il calcolo, riconoscere, addirittura prevedere il decorso delle malattie, era una professione, per cui veniva svolta regolarmente in ambito medico, non solo. E aggiungo un'altra importantissima parentela tra il lavoro che ho fatto e tutta la galassia della Women Foundation. Uno dei libri che hai curato della tua collana è Tabloid Inferno di Selene Pascarella. Selene fa un lavoro di ripulitura e di ricerca delle sporcizie nel linguaggio con cui la cronaca racconta la cronaca nera o la caccia di dettagli morbosi, spessissimo da un punto di vista reazionario, maschilista, misogino. E visto che anch'io ho lavorato per tanti anni, ho fatto lo sbirro della scienza, io ero il buttafuori che veniva incaricato di decidere chi poteva essere ammesso alla vera magia, chi invece doveva restare fuori perché usava dei trucchi. Io militavo nel CICAP ed ero incaricato da illusionista a prendere in esame le persone che dicevano di avere dei poteri, perché io col mio sguardo, diciamo così, sgamato, riuscivo a vedere... L'illusionista come sicario era la cosa, no? Hitman, Hitman. E quindi decidevo che poteva entrare chi no, e regolarmente era no, cioè tu non entri e tu sì. E questo lavoro da guardiano della soglia era assai piacevole dal punto di vista psicologico, perché insomma butta fuori una persona di potere e soprattutto divide l'umanità in chi ha capito e in chi invece crede alle bufale, alle bubole, eccetera. E quindi incoraggia uno sguardo anche un po' colonialista, no? Su chi è più ignorante, chi è più stupida e chi invece è... può far parte della civiltà perché certe cose le ha capite. E ci è voluto un po' di tempo per accorgermi, e l'incontro appunto con la comunità che fa riferimento alla Women Foundation mi ha fatto vedere i limiti di quell'attività e che forse il vero discrimine non era tra questa persona usa un trucco e cosa no, e questa no. Faccio questo esercizio nel capitolo sulla Sibilla Moderna, che è il primo delle sei personaggi che incontro a Torino. Ne racconto una delle sue fregature, per la quale poi verrà processata, con il linguaggio usato che utilizzerebbe Cronaca Vera o Giallo o una trasmissione qualunque di Rete 4. O Striscia, ancora di più, certo. La racconto in questi termini, poi mi fermo e dico, oddio, ho usato il pilota automatico, fatto come facevo un tempo, cioè ha usato un trucco, galera, al gabbio. C'è un modo per pulire il linguaggio, quindi mi rivolgo direttamente a Selene, che quindi ha contribuito con scambi di mail molto fitti che riporto, che mi fa vedere in che modo in quel linguaggio, in quell'atteggiamento classista, sessista, misogino, anche appunto colonialista, perché chi crede a queste cose è arretrato e quasi si merita di essere spennato come un pollo perché in qualche modo è colpevole di questa credulità. Provo a riscrivere lo stesso paragrafo e mi accorgo che questa stessa Sibilla può essere raccontata come una terapeuta che cercava maieuticamente di aiutare la persona che aveva davanti, un po' inconsapevole dei limiti delle proprie possibilità, e naturalmente paragonare una sensitiva che rischia la galera a una psicoterapeuta non è facilissimo, ecco, perché improvvisamente salta quella barriera che io avevo in qualche modo vegliato da ricercatore del vero, contrapposto al truccato, al dopato, e allora mi accorgo che forse il confine più interessante è un altro. Quanto è emancipante quella relazione che si crea tra le due persone? In tantissime relazioni nostre hanno aspetti di verticalità, anche in coppia, anche nelle questioni amorose, c'è chi è più bravo a fare una cosa, c'è chi è più bravo a farne un'altra, non è detto che l'orizzontalità sia sempre la dinamica su cui si basano le nostre relazioni. Questa verticalità tra la persona che cerca di aiutare e quella che ha bisogno di aiuto viene esplicitata con una forma maieutica che serve ad emancipare l'altra persona o instaura una dinamica di dominio. Questo problema si presenta identico nella relazione tra astrologo e cliente come tra terapeuta, psicoterapeuta e cliente, per cui è qualcosa che si può trovare in modo assolutamente trasversale. Sempre parlando di questo mi sono reso conto, parlando con amiche che si occupano di sex work, che mentre nell'ambito del sex work c'è un lavoro di destigmatizzazione delle sex worker, considerando il valore di cura di quello che loro fanno e che cercano in qualche modo di tenere insieme tutto il dramma di quella esperienza quando è legata alla necessità di farlo, ma anche il valore che può avere sociale questa professione in un'ottica di sex positivity. Non esiste, non ho mai letto al mondo, di una psychic positivity. Non ho mai sentito una lotta per la destigmatizzazione della veggenza in una società capitalista che ha delegato completamente il ruolo di cura alla psicologia individuale da parte di persone che abbiano una laurea e che quindi abbiano dei cachet di un certo livello. Per cui faccio il paragone tra la manager in burnout che si rivolge alla terapeuta che viene considerata una donna responsabile e invece la ragazza madre che chiede aiuto alla cartomante, quella invece è una polla da spellare perché è così ingenua da cascarci a queste cose. Cambiare questo sguardo è difficilissimo, lo è stato per me che nella prima stesura avevo scritto col pilota automatico. Mantenere quel paragrafo, metterlo in critica e chiedere una mano a Selene per ripulirlo, l'ho trovato molto utile, e il libro Tabloid Inferno è un tentativo che da pagina 1 a pagina, l'ultima pagina, lo fa con tutte le storie di Nera. E ancora adesso ho i brividi a pensare al capitolo che scrive sull'infanticidio di Cogne, che mi ha segnato così tanto che mi sono detto... Se riesce a destigmatizzare la figura di Anna Maria Franzoni, forse lo dobbiamo fare anche con Vanna Marchi e con tutte queste streghe moderne, su cui invece è facilissimo scagliare dardi e randellare. E quindi la domanda fondamentale alla base di questo libro è: si può parlare di scienza e di magia in modo materialista senza trasformare questo discorso in un randello? E per dire cosa? E quindi il mio tentativo è stato quello di tenere insieme questi due piani. No, riguardo al lavoro fatto da Selene sulla cronaca nera, sulle narrazioni della cronaca nera e l'apparizione di Vanna Marchi all'improvviso nel tuo libro ci sta, è perfetta. A un certo punto viene materializzata Vanna Marchi. Ora, chi è più giovane non se la ricorda più. Vanna Marchi era un'imbonitrice televisiva che a un certo punto, verso la fine degli anni Ottanta, diventa famosissima, diventa una star per il suo modo particolarmente veemente, aggressivo di esprimersi, è una che sbraita, eccetera, e passa appunto come una molto ruspante e di queste parti qua, è particolarmente, insomma, popolaresca, come si dice, molto pittoresca, eccetera, eccetera, e quindi dalle TV locali, dalle TV, dalle televendite sulle TV locali, diventa ospite di talk show nazionali, eccetera, incide anche un disco ad un certo punto. Lei il prodotto che vende per cui fa le telepromozioni è un'alga che serve per dimagrire, via la pancia, urla queste cose qua, eccetera, ma lo fa in una maniera talmente particolare, una performance sovraccarica sopra le righe, per cui diventa celeberrima. Ad un certo punto però va sull'occulto, cambia un po' genere, no? Si associa ad un mago brasiliano, il mago Do Nascimento, e loro praticamente ti mandano a casa un sacco pieno di sale e ti dicono: se si scioglie vuol dire che va tutto bene, se non si scioglie vuol dire che qualcuno ti ha fatto una fattura e quindi hai bisogno di noi, eccetera, eccetera, no? Un sacco di gente ordina sto sale che gli arriva a casa, chiaramente sto sale da solo non si scioglie, uno deve vivere in una casa veramente molto umida perché il sale si sciolga così da solo, e insomma praticamente le va addosso, soprattutto Striscia la Notizia, si interessa alla magistratura di lei comincia ad avere tutta una serie di cause e di guai giudiziari da parte di persone che prima hanno preso il sale, eccetera, eccetera, e dopo gli si è caricata la molla e hanno detto: questa mi ha imbrogliato, eccetera, eccetera, e praticamente poi la sua diventa una saga più di cronaca giudiziaria che di appunto costume, e di fatto è la fine della sua figura pubblica, no? Allora, noi possiamo vedere questa storia di Vanna Marchi come: questa era una che turlupinava la povera gente, indubbiamente questa è una parte della verità, è la parte più appariscente della verità, e spennava i polli, appunto, eccetera, eccetera, quindi insomma alimentando superstizioni e tutto quanto. Dall'altra però uno pensa una cosa, no? Vanna Marchi non faceva nulla di diverso da quello che all'epoca facevano il mago Telma, il mago di Arcella, Giucas Casella, c'è tutti dei personaggi che simulavano di avere dei poteri e che si facevano pagare profumatamente per dei consulti privati, che ti leggevano i tarocchi, ed erano sempre in televisione, ok, però erano maschi. però erano maschi e quindi andava bene. Sono rimasti alla vetta della popolarità, anche quando si è scoperto che Giucas Casella non era davvero un paragnosta, ma era un prestigiatore, e che non era vero che appunto ti ipnotizzava, ti leggeva nella mente e cose di questo tipo, lui però comunque ha continuato ad andare in televisione, è stato all'Isola dei Famosi, eccetera, perché il maschio può sempre buttarla in vacca, no? Hai visto, no? Era una cazzata, no? E sei simpatico e fai, se sei una donna non ti viene perdonato, ok? Quindi Vanna Marchi, su di lei si esercita comunque una dimensione in più di condanna, che è quella della misoginia che innerva in ogni suo aspetto la nostra cultura. Gli è stato fatto pagare il fatto che ha fatto quella roba lì essendo donna, perché gli altri erano dei maschi e hanno continuato a ciarlataneggiare, assolutamente incontrastati, senza nessun problema, chiamati in quanto macchiette, però appunto in quanto macchiette, perché hanno comunque avuto la seconda possibilità, una volta scoperto che in realtà fingevano, di potersi riciclare come macchiette, come comunque il personaggio divertente, quello che lo chiami all'Isola dei Famosi e tutto quanto. Quindi è facile stigmatizzare Vanna Marchi senza rendersi conto che su di lei è stato esercitato un surplus di violenza e di aggressività. Quando noi vediamo, ne ha fatto ormai per fortuna in declino quella trasmissione orripilante che è Striscia la Notizia, ma però è andata avanti per decenni, fingendo di praticamente fare un servizio pubblico, di fare TV civica, di insomma portare avanti cause a nome dei cittadini, prendendosela sempre con pesci piccoli, che poi sempre fa tucchiere, cartomanti, piccole truffatrici, eccetera, eccetera, che venivano braccate, inseguite, eccetera. La violenza di quelle scene è stata digerita dal nostro immaginario con una facilità, erano accettate, no? Perché comunque la strega va cacciata. Cioè, cosa puoi fare nei confronti delle streghe se non la caccia alle streghe e poi bruciarla sul rogo mediatico, in quel caso lì, no? Ecco, proviamo appunto a ricalibrare lo sguardo, e non è solo lo sguardo dei maschi, perché come per il trucco della donna segata in due, per generazioni e generazioni anche le spettatrici non si sono hanno accettato col pilota automatico quella cosa lì. Non è solo questione dello sguardo del maschio in questo caso qui, perché spesso c'è anche una violenza di branco femminile nei confronti della reproba che si esercita, quindi è veramente complessa la dimensione a cui stiamo attingendo in questo momento qui. E volevo dire un'altra cosa invece riguardo alla questione del debunking, no, del debunking, di quello che mi chiamo il razio suprematismo, no? L'idea che di fronte a un fenomeno possono essere variegati, come può essere appunto l'occulto, la magia, il soprannaturale, il paranormale, ma anche la leggenda metropolitana, la bufala mediatica, la fake news e la fantasia di complotto, l'approccio corretto da tenere sia semplicemente dimostrare che si tratta di qualcosa di falso e di irrazionale. Una volta che hai fatto questo sei a posto. È falso, te lo dimostro con i fatti, è irrazionale in base all'idea di ragione di cui io sono paladino, che è quella della scienza, del metodo scientifico con la M e con la S maiuscola. Ora, il debunking non è mai riuscito in alcun modo a contrastare i fenomeni contro cui combatte. Mai, non ha mai funzionato, non c'è nessuna leggenda urbana che ha smesso di circolare perché qualcuno ha scritto guardate che è una leggenda urbana, non c'è nessuna fantasia di complotto che ha smesso di svilupparsi perché qualcuno ha dimostrato che era una fantasia di complotto, nessuno ha mai smesso di andare da un mago o da una chiromante perché ha letto che Piero Angela ha scritto che quello lì è un trucco, eccetera eccetera. Non funziona. E quelli che vengono debunkati poco tempo dopo, tra l'altro, riprendono la loro attività tranquillamente, no? A meno che appunto non si eserciti una violenza che va oltre il debunking, che è quella appunto poliziesca, giudiziaria, del linciaggio e quant'altro. Ma se ti limiti al debunking non serve assolutamente a nulla. Ecco, un lavoro che ha fatto Mariano in questi anni prezioso e che per me è stato fondamentale per poter scrivere il mio libro, che qui poi viene citato, adesso arriviamo anche a quello, La Q di complotto, è stato anche di superare il debunking. cioè lui appunto dice io ho fatto lo sbirro, ho fatto il buttafuori, ha fatto il sicario, appunto faceva quello che faceva De Banking, lo faceva anche bene, cioè il suo libro sui trucchi di Gustavo Roll è uno dei libri di De Banking più belli mai scritti, cioè oggettivamente Roll, realtà o leggenda, è un libro bellissimo che smonta completamente l'allure appunto di questo sensitivo torinese che andava per la maggiore nella seconda metà del Novecento, di cui erano infatuati Fellini, cioè tutta una serie di VIP, di personaggi, non solo della Torino Bene, ma di tutta Italia, e lui praticamente, Mariano, nel suo libro Roll, realtà o leggenda, ha praticamente dimostrato che tutto quello che viene raccontato nei resoconti di queste sedute a casa di Roll, in cui lui materializzava oggetti, eccetera, eccetera, qualunque cosa che Roll ha fatto è riproducibile con un gioco di prestigio e ti fa vedere anche come si chiama, chi l'ha inventato e tutto quanto. Ecco, quindi lui era molto bravo a fare debunking, però a un certo punto si è reso conto che non bastava. Non bastava e portava anche su false piste, era fuorviante pensare che la risposta a certe cose possa limitarsi al debunking, no? Ed è lì che noi stavamo ragionando su narrazioni tossiche, smontaggi di narrazioni tossiche, lui su come argomentare, articolare questo suo superamento del modello CICAP, diciamo del debunking, eccetera, eccetera, ed è lì che ci siamo incontrati. E ne rendo conto poi appunto nella Q di complotto, proprio nei capitoli sul debunking e su come andare oltre il debunking, c'è tutta una carrellata sul lavoro di Mariano. Ecco, Mariano è ripartito dalla Q di complotto e mi ha infilato come personaggio in Incantagioni. Ad un certo punto compaio io. Non è vero che non scrive fiction, tra l'altro. Io vorrei precisare una roba, no? Perché sveliamolo. Allora, ci sono elementi di fiction all'interno dei suoi resoconti dei propri viaggi e della propria ricerca, cioè tutti i documenti che lui cita, tutte le storie che lui usa, tutti i virgolettati sono reali, documentati, segnalati in nota, ti dice dove si trova quel tal documento in tale archivio, e tutto quello lì è, come si direbbe in inglese, unassailable, cioè proprio è così, no? Ma il racconto della propria ricerca contiene degli elementi, appunto, usa delle tecniche letterarie, no? Ad esempio, qui il frame, la cornice di Incantagioni è un unico viaggio che lui fa in Francia e mette in fila diverse città e in ogni città va a visitare i luoghi di cui racconterà, visita l'archivio locale, la biblioteca locale con il microfilm e tutto quanto. Sono tutte cose che ha fatto davvero, però chiaramente altre cose invece le ha trovate in altre città, le ha trovate a Roma, le ha trovate così, eccetera, eccetera. Però cioè, ne sarebbe venuto fuori un viaggio narrativamente meno efficace, e quindi ha semplicemente usato l'escamotage del viaggio, il mettere in fila. Quindi si potrebbe dire che questa è anche fiction, però è un ricorso limitato a elementi di fiction come connettivi, diciamo, come giunture di una ricerca il cui contenuto in realtà è tutto documentalmente inattaccabile. Ecco, quindi è ibrido, è anfibio il libro, come quasi tutto quello che fa Mariano. E non è vero che non c'è fiction, ecco, volevo dire questo. Il dialogo che lui riporta, il dialogo filosofico tra me e lui, che lui riporta raccontando la sesta storia, che è la più potente, perché il libro finisce con un climax incredibile, la più potente è la storia, è il racconto intitolato La donna invisibile, che è la storia di questa donna francese, questa pianista che si chiamava Ursulie Rouy. Nel raccontare la storia di Ursulie Rouy, lui a un certo punto tocca dei nodi, arriva a dei punti in cui ha delle perplessità, dei dubbi, in cui la realtà gli appare in una maniera che lo lascia turbato, e trova stranamente dei parallelismi, delle similitudini con storie che invece ho raccontato io nella Q di complotto, storie molto più recenti, come quella di QAnon, no? E allora cosa fa? Mi telefona, mi racconta tutta la storia di Ursulie Rouy, io ascolto e poi cominciamo uno scambio che diventa un vero e proprio dialogo filosofico. Ora, quel dialogo lì non è avvenuto in una telefonata. L'espediente narrativo è di farlo avvenire tutto in una telefonata, però in realtà quello lì è un dialogo che intanto non ha solo come epicentro la storia di Ursulie Rouy, è un dialogo che è durato anni, quello lì. il cui spirito, la cui sostanza viene condensato sull'esempio di Elsie Lui e di questi parallelismi, ma che però in realtà è un dialogo a distanza che è avvenuto al telefono, via chat, via mail e dal vivo a partire dal 2014. L'espediente letterario è quello di fare una telefonata con lui in mezzo alla strada e io nel mio studio, in cui ci rimpagliamo i parallelismi possibili tra la fantasia di complotto che era nata da questa apparentemente inspiegabile detenzione psichiatrica di questa Elsie Lui, la fantasia di complotto che era nata per spiegare come mai costei fosse stata chiusa in manicomio senza alcun motivo apparente, e le fantasie di complotto che formano questa sintesi fantasmagorica che ha preso il nome di QAnon e di cui ho parlato nella Q di complotto. Quindi figuro anche come personaggio in un inserto di fiction. Ecco, però, ripeto, la fiction serve semplicemente per rendere conto in maniera più narrativamente efficace di una ricerca il cui contenuto e le cui scoperte però sono tutte non fiction, sono tutte storiograficamente solide ed è tutto documentato e annotato, in modo che proprio il metodo storiografico è questo, in modo che chiunque altro, se vuole, possa andare a consultare quegli archivi, trovare la stessa fonte e verificare che Mariano l'ha riportata fedelmente. Io, essendo vissuto negli anni fine 70, inizio 80, ho vissuto la nascita di videogiochi, quindi la mia mente si è un po' plasmata a livelli e devo dire ho affrontato un po' la scrittura di queste pagine come 5 livelli di preparazione, e nei videogiochi di solito ciascun livello pone una difficoltà diversa, la personaggia o il personaggio coinvolto deve acquisire delle skill specifiche prima di superare un certo tipo di sfida, e mi sembra che le prime 5 veggenti di cui racconto la storia, ciascuna abbia un problema da risolvere specifico e ciascuna trova nel paranormale una via per piegare la realtà e ottenere effetti reali utilizzando l'illusione. Il capitolo 6 è il mostro finale, quello che mette insieme come componenti tutti i mostri dei livelli prima, il super boss di fine gioco, perché la donna invisibile, Elsie Lui, è costretta si trova in una situazione al cubo rispetto come difficoltà rispetto alle precedenti, appunto perché un giorno si sveglia ed è in un manicomio e non sa perché, e sa soltanto che la moglie di suo padre, qualche anno prima, aveva vissuto la sua stessa esperienza, ma dentro un gioco di prestigio, perché il padre era l'illusionista Charles Rouy, famoso a Parigi perché aveva messo in scena la donna invisibile. Voi entravate in una stanza come questa, vi trovavate davanti a una sfera di vetro sospesa al centro della sala, attaccata con dei fili sottilissimi, chiaramente vuota. Dentro questa sfera di vetro c'è la moglie di Charles Rouy, invisibile, resa spirito, pura voce, perché da questa sfera escono 4 cornetti acustici. Mi rendo conto che è assurdo, che nessuno lo crederebbe se fosse un romanzo. Mi permetto di dirvelo perché è vero. E quindi si pagava un biglietto per non vedere una persona, ma di sentirne la voce. Quindi chiamarlo spettacolo, che devi aspettare da vedere, non è proprio correttissimo. Era un miracolo acustico e si poteva interagire con questa donna. Un oracolo. Eh sì. Un oracolo. Oracolo. Letteralmente un oracolo. Perfetto. Si parlava con questa sfera e la sfera era in grado di descrivere come eravate vestite, quanti eravate, era lì, la donna era dentro questa sfera e non c'era nulla che lo potesse far mettere in discussione. Intorno a questa sfera c'era una transenna per evitare di toccarla, che era in realtà il trucco, perché la voce usciva da un braccio della transenna, passava sotto il pavimento, finiva dietro un armadio a muro sottilissimo, dietro cui viveva ore e ore e ore senza poter fare pipì, senza poter respirare, tossire, non voglio immaginare il giorno del ciclo, una donna che questo doveva fare, prestare la voce a un'illusione. E quindi la vita di queste in realtà erano almeno 3 nel 1800 a Parigi, le donne invisibili che si esibivano, trovare il loro nome è complicatissimo perché naturalmente non esistevano, non dovevano esistere, erano pura voce, e ho trovato il nome di costei. Costei era la donna invisibile, riesce a liberarsi del marito, racconto come. Il marito poi ha poi una figlia con un'altra moglie, la quale figlia, Elsie Lui, si trova a rivivere l'illusione che il padre aveva somministrato alla moglie in una versione totalmente impazzita, perché lei diventa invisibile davvero agli occhi di tutta la famiglia, perché è in manicomio e la famiglia viene comunicato che è morta. E lei si chiede com'è possibile che la magia sia diventata realtà, in un incubo assolutamente folle. Questa è la storia che, quando ho iniziato a leggerla, mi ha tolto il fiato. Era una storia da incubo, e per anni l'ho macinata, l'ho già un pezzettino raccontata in un Mesmer volume 2 precedente, ma non era come andava raccontata fino in fondo, e qui cerco di farne un lavoro più completo. Sei stato molto bravo a non spoilerare perché a Milano avete spoilerato. Brutto. A Milano avete spoilerato. Non lo dovrò scrivere, perché lo scioglimento della vicenda è quantomeno interessante, e come abbiamo suggerito ha a che fare con QAnon. È in che modo una leggenda solo in qualche modo metastatizzata negli anni 2000 possa avere dei riferimenti così antichi agli anni 60 e 70 dell'Ottocento è sorprendente. Mi ha sorpreso così tanto che abbiamo dovuto in qualche modo scambiarci queste impressioni. E aggiungo una cosa a proposito del debunking: è proprio un caso in cui chi avesse voluto fare debunking di questa storia avrebbe condannato lei al manicomio perpetuo. E per me lì era un modo per dire ancora una volta: forse il debunking ci sta deviando l'attenzione altrove. Ripenso all'immagine che ho offerto prima, la ragazza madre che ha bisogno di aiuto perché è in depressione postpartum e si rivolge all'astrologa. Limitarsi a randellare l'astrologa ci fa mettere in secondo piano che lì c'è un'esigenza importante. Nel momento in cui sono riuscito a metterla in galera, ho risolto il problema di questa donna che aveva bisogno di una mano. Allora forse nel dare troppa attenzione al debunking stiamo perdendo di vista, ed è un'ottima misdirection, dalla necessità di cura, che è invece quello che come società dovremmo vedere prima di tutto. E se la magia è un modo per curare, forse solo in un mondo pacificato e senza conflitto allora possiamo metterci a fare gli schizzinosi e a decidere che alcune forme di cura sono migliori e no. Nel mondo ben lontano dall'essere pacificato come il nostro, se la magia diventa uno strumento di cura e di lotta, allora dobbiamo ergerci a difensori della magia, non tanto a debunker, perché fare i debunker vuol dire essere dei reazionari. Sì, no, tanto faccio l'esempio delle rivolte. Faccio l'esempio delle numerose rivolte contadine che hanno scosso l'ordine feudale in Europa dalla fine del Medioevo fino alla prima età moderna, no? Spesso queste rivolte contadine avevano come sovrastruttura, come narrazione, non lo so, era apparsa la Madonna che aveva detto che dovevano, oppure c'era la tal profezia che diceva, spesso appunto le cause erano concrete, sociali, nella fame, nella disuguaglianza, nello sfruttamento, quant'altro, esplodevano queste rivolte che però prendevano per giustificarsi l'ideologia che trovavano. L'ideologia del mondo feudale è la religione cattolica, no? E quindi dalla Bibbia o dal culto mariano venivano prese queste immagini e si diceva che, non so, magari nel tal posto era apparso il tal santo o era apparsa la tal Madonna che aveva detto il principe o il vescovo è un servo del diavolo, eccetera eccetera. No, allora uno storico bravo ti racconta tutto questo in questa chiave, dicendo quali sono le basi materiali di questa credenza che all'improvviso si impossessa di questa gente, perché proprio questa credenza, cioè a che punto era arrivato insomma la base materiale, appunto le condizioni di lavoro, il modo di produzione, l'equilibrio tra i poteri, i rapporti di forza in quella parte d'Europa, in quel dato anno, in quel momento lì, perché questa credenza potesse impossessarsi di quei contadini e fare da narrazione giustificatrice di un atto di sollevazione popolare. Quello lo fa uno storico serio. Un debunker ti dimostrerebbe che non è vero che era apparsa la Madonna. Capito? Questo è l'esempio di cosa fa il debunking, cioè si ferma al livello più superficiale possibile e pensa di aver già risolto la questione. Io devo a un'amica di Bologna un momento di sincera commozione legato a una delle storie che ho raccontato, e non ti ho neanche anticipato che cosa stavo per fare. Alice, quando ha letto la storia di Ersilie, ha detto: ah, cantante come me. Ersilie era una pianista, era una compositrice, e quando era stata chiusa in 6 diversi manicomi, perché poi ha dovuto fare una via crucis specchio drammatico della mia, perché invece io faccio un viaggio con l'aria condizionata dell'auto, lei invece è portata dentro carrozze blindate. E io avrei potuto scegliere uno qualunque dei 6 manicomi dove lei era stata. L'estate precedente avevo fatto l'intero tour e ho scelto l'ultima, che è quella di Orléans, perché poi lì a Orléans c'è tutta una storia di sotterranei che conterrebbero cose inenarrabili, che portano poi a Central Park e a QAnon. Ma quando era stata appunto chiusa, lei all'inizio aveva provato a chiedere un contatto col direttore e spiegargli: guardi, io sono una pianista, lavoro insegnando pianoforte, compongo, troverà alla biblioteca pubblica tutti i miei spartiti, vada a verificare, si accorge che sono una persona normale, qualunque cosa voglia dire. E costui, naturalmente, in un'epoca in cui Google non c'era, non era semplice andare a cercare le recensioni dei suoi concerti, eccetera, non ha fatto assolutamente nulla di tutto questo, perché il manicomio ti pone in una condizione tale per cui nulla di quello che dici può essere accolto come savio, razionale, ragionevole. E quindi anche un capitolo terrificante per il gaslighting che ha dovuto subire per anni, anni e anni. Spiego cos'è il gaslighting. Gaslighting è quella forma di violenza per cui una persona ti convince che sei matto o sei matta, e quindi qualunque cosa tu dica te la rivolta contro, dimostrandoti che questo è un segno che sei fuori di testa, e quindi screditando quello che tu fai. Io invece con Google posso farlo, posso andare a cercare lo spartito delle musiche e dirsi lì, posso cercare le recensioni dei suoi concerti, ne ho trovata una, l'ho riportata nel dossier, racconta che questa matta faceva i concerti gratis in modo che la musica fosse accessibile a tutti. Wow. E poi trovo il suo spartito, lo pubblico, e poi ovviamente l'appetito viene mangiando. Che cosa fai? Mio papà suona il piano, ha detto: senti pa, la dai una mano? Gliela faccio suonare, questa qua è lo spartito, mi faccio fare l'MP3, lo mando a Alice. Alice, ti va di cantarmela? E me la cantate, io ho la canzone di Arsili, la volete sentire un pezzettino? Sì. E io quando mi è arrivata l'ho sentita, insomma, è stato intenso, sapendo chi era la protagonista. Non ho l'altoparlante Bluetooth, ma insomma, metteremo alto il volume. Metti il microfono. Ah, giusto, ottimo. Metti il microfono. Andiamo. Davanti allo speaker. Pre-internamento, aveva già questa tonalità minore che in qualche modo sì. Che non faceva presagire che la cosa non stava andando nella giusta direzione. Grazie Alice. Non è qui perché è il saggio delle sue studentesse, perché anche Alice insegna e quindi è con noi, insomma, con la sua voce come la donna invisibile. Ci sono domande, curiosità, perplessità, qualunque cosa? È stato un po' un bombardamento, ovviamente. Sì? No, niente, che in merito al fatto che il mesmerismo e il mentalismo potevano essere anche una forma di emancipazione, di riscatto, soprattutto di donne provenienti da ceti minori della società, e mi è venuto in mente che questo, ma in un modo diverso, succedeva anche prima, anche nel Medioevo, però per quanto riguardava il fenomeno delle sante, delle mistiche, delle religiose, tipo Santa Caterina da Siena, che poteva permettersi, senza manco essere una suora, una vera e propria religiosa, di mandare lettere infuocate al Papa del tempo, dove lo rimproverava delle scelte religiose e anche politiche che faceva, oppure la stessa Giovanna d'Arco, che poté permettersi, dicendo che aveva un contatto diretto con Dio, di fare cose inaudite, soprattutto per una ragazza, per una contadina che veniva da un paesino sperduto della Francia dell'epoca, nel pieno della guerra dei cent'anni, e che era tipo vestirsi da uomo, andare in battaglia, portare il regno di Francia alla vittoria contro gli inglesi, e anche difendersi comunque abbastanza bene nel processo poi che le venne fatto in Inghilterra, al punto che quasi nessuno riusciva a spiegare come lei facesse, viste le sue origini umili, a tenere testa in quel modo dei giudici che chiaramente puntavano a condannarla per stregoneria, per eresia, cosa per la quale poi lei fu bruciata alla fine. Quindi niente, però mi sembra quasi che da quel punto di vista, cioè giustificando in un'ottica religiosa, di credenza e cristiana, in qualche modo venga tuttora anche giustificato, no? Mentre invece appunto se si mettono sul piano la magia, il mesmerismo, queste cose qui, automaticamente si pensa no, sono scemenze. Quando invece in un certo senso ci si crede ancora e si fanno distinzioni un po' di serie A e di serie B, tra cose che più o meno però sono lì. Mi sembra centratissimo. Sì. Io poi ho usato molto Silvia Federici, naturalmente, perché lei che va ben indietro, collegando la caccia alle streghe alla nascita del capitalismo, perché erano donne che in qualche modo mettevano a disponibilità la cura senza chiedere nulla in cambio, in qualche modo anche disturbando il controllo della cura da parte della scienza o dall'alto, o normata secondo logiche. Quindi si può andare molto più indietro di come ho fatto io, e io da scienziato mi ha divertito tantissimo l'idea che la scienza abbia vissuto questo trip di dire oddio, i fenomeni paranormali sono riproducibili, wow, adesso ci proviamo, e per tanto tempo una serie di persone ci hanno creduto. Sì. E questa idea che delle donne ne abbiano approfittato è per noi maschi terribile, deve essere, dall'altra parte deve essere eccitante. Tra Lombroso e Eusapia Palladino, io tifo Palladino tutta la vita, insomma, perché questo è un riferimento, andate a cercare voi, insomma, Lombroso ad un certo punto ha avuto questo momento spiritico, appunto un positivista dell'Ottocento, eccetera, eccetera, che però a un certo momento si è innamorato dello spiritismo, e credeva a tutto quello che diceva e faceva questa medium che si chiamava Eusapia Palladino, che è molto più simpatica di lui. Beh, abbiamo un uomo contro una donna, abbiamo un settentrionale contro una terrona. Sì, una napoletana. Lei. Napoletana, con la faccia sfigurata contro un uomo che si curava il baffo. Ricco e studiato rispetto a una donna del popolo. E che vinca lei, e che lui sia morto con la macchia dal fronte dei colleghi di esserci cascato. E lui ha chiuso la carriera dicendo la magia esiste perché l'ho vista in Eusapia. Quella è una storia che era raccontato proprio così, cioè una donna riuscita a piegare sì, assolutamente la punta del positivismo ottocentesco. Sì. Poi si apre tutto un altro capitolo, perché a fare debunking della Palladino fu Houdini, però Houdini è un altro che è rimasto un po' prigioniero del debunking, no? Cioè praticamente quasi impazzito per il debunking, perché lui faceva questa guerra contro le medium, gli spiritisti e tutto quanto, si infiltrava alle sedute spiritiche, poi a un certo punto si toglieva il travestimento, diceva ha usato questo trucco qui, ha usato questo trucco là, eccetera eccetera, e diceva di farlo perché quelle persone stavano sfruttando il dolore, quasi sempre erano genitori i cui figli erano morti e che loro cercavano di evocare. Lo spiritismo ha avuto il suo apice subito dopo la Grande Guerra, perché molta gente aveva perso i figli in guerra, e quindi quando gli dicevi che potevano comunicare con le anime dei loro figli, però anche lì è particolare, perché se noi la guardiamo solo come truffa, allora ok, questi erano delle imbroglioni, erano quasi sempre donne, le medium, però se noi la vediamo che in qualche modo c'erano delle vite bloccate, che non riuscivano a elaborare un lutto, uno stress post-traumatico per in, cioè, di persone che non l'avevano fatta la guerra, ma che il figlio era morto in guerra e il loro trauma era quello. Finita la guerra, non riuscivano più a ripartire, si torturavano, si maceravano e grazie a una seduta spiritica hanno ritrovato consolazione, magari ha detto ok, va bene, lui di là sta bene, smetto di preoccuparmene, la mia vita riparte e quant'altro, allora effettivamente... È diverso, guardate che insomma siamo veramente in un territorio ambiguo dove ogni cosa può essere letta in modi opposti, no? Ecco, e, però diciamo Houdini si concentrava sullo smascherare quelli che insomma sfruttavano il dolore di queste persone, si facevano pagare, eccetera. A un certo punto però Houdini è entrato in un trip in cui viveva per il debunking, praticamente si viveva come un guerriero, come uno in guerra contro lo spiritismo, il soprannaturale, i fenomeni medianici, le truffe paranormali e quant'altro, e pare che avesse ad un certo punto messo su con i propri fondi, era ricchissimo, con i propri fondi aveva messo su un vero e proprio servizio segreto personale, un servizio di intelligence, perché era anche diventato paranoico, pensava che i medium vendicativi attentassero alla sua vita, che cioè, e fosse in pericolo e quant'altro, si è creato una sorta di gabbia mentale partendo dal debunking, no? E tra l'altro ci sono alcune medium di cui lui si è occupato, il cui modo di porsi era palesemente anche una sorta di rivendicazione di maggiore libertà di costume, aveva una dimensione erotica, penso a come emerge e lui invece questa cosa non la vede, da maschio appunto alfa, da maschio alfa lui questa cosa non la vede minimamente, non la può vedere, non è attrezzato culturalmente per vederla, lui cerca solo il trucco, cerca solo riduce tutto a una questione tecnica, a una questione di destrezza, a una questione di manipolazione del prossimo. Ed è lui a inaugurare, in realtà è l'inventore della letteratura del debunking, cioè i primi libri di debunking moderni che vengono scritti, che diventano dei bestseller nel mercato di massa contemporaneo nel XX secolo, e a far diventare il debunking come qualcosa di pop e non soltanto qualcosa per circoli colti eccetera eccetera, è Houdini. Lui è quello che fa diventare questa lotta contro lo spiritismo un qualcosa appunto di popular, ne parlano giornali che rispetto all'Ottocento hanno una circolazione di 100 volte maggiore, è nata la moderna industria dei media, che nell'Ottocento esisteva un'industria dei media, ma non a quel livello, la società di massa che si afferma nel Novecento vede in Houdini il vero popolarizzatore del debunking. Ce lo siamo dimenticati, noi quando pensiamo alla seduta spiritica immaginiamo l'ectoplasma che si presenta o il bicchierino che fa i messaggi dell'aldilà. In realtà c'era una micro esperienza psichica che era utilissima. Non so quante di voi chiedano al partner: mi mandi un messaggino quando arrivi così che stai bene. È così ovvio oggi chiedere questa tranquillizzazione psicologica, che invece in un'epoca senza telefoni, senza avere un figlio che partiva per la guerra e non sapere neanche dove fosse, ma se fosse vivo o no, bastava sapere è vivo? O posso piangerlo in pace su una tomba vuota, eccetera. Per cui un classico test che si faceva intorno al tavolo era semplicemente il test: questa persona è viva o morta? E non è che si pensava di mettersi in contatto con lei. Quindi persone che non erano minimamente credenti nella sopravvivenza dell'anima, eccetera, potevano invece credere a dei metodi diagnostici per capire se la tal persona era viva o morta. E quindi questo era un rito che in qualche modo svolgeva la funzione del SMS, che ti dice: tranquillo, sono arrivato, puoi dormire in pace. Abbatterlo perché è finto ci fa dimenticare il bisogno che oggi sopravvive, che grazie al cielo i cellulari in qualche modo sono riusciti a rivenderci, però è importante non perdere di vista qual è l'esigenza profonda che la magia in quel modo sta cercando di soddisfare. No, poi pensare che tutti fossero dei merli, dei babbei, perché ci cadevano quando c'erano scienziati, premi Nobel, riviste scientifiche come lo Scientific American che accreditavano questo tipo di cose, cioè ci fa perdere di vista il contesto. Ecco, erano pochissimi a contestare l'egemonia che ha avuto lo spiritismo ad un certo punto, ci credevano tutti, dal presidente degli Stati Uniti in giù. Quindi pensare che la coppia di genitori il cui figlio è disperso, che non sanno non sanno che sorte abbia avuto e non riescono a darsi pace, eccetera, eccetera, fossero più creduloni di altri è falsante rispetto, appunto, diversi numeri dello Scientific American, che era la rivista scientifica più importante negli Stati Uniti, avevano pubblicato risultati di studi, chiaramente fallati, che però accreditavano che queste cose avessero una base scientifica. A Orléans chiamo, lui non lo sapeva che non c'era, chiamo Roberto seduto davanti alla casa di Giovanna d'Arco. Quindi in qualche modo c'è questa evocazione diagonale, e poi rientra perché uno dei personaggi sta scrivendo una biografia di Giovanna d'Arco e entra in contatto con Ersilie chiedendosi: Ersilie è una nuova Giovanna d'Arco? Interessante, allora forse c'è qualcosa. No, e poi Giovanna d'Arco la fai anche come esempio, come controesempio rispetto al fatto che quando raccontiamo storie di donne protagoniste, volitive, che si affermano, eccetera, eccetera, fa sempre una brutta fine, però. Ecco, e quindi dice: bisogna riuscire a raccontarle senza che facciano una brutta fine. Ma storicamente il boom dello spiritismo cos'è nell'Ottocento? Ma c'è una motivazione di come mai? C'è un po' una sudditanza culturale agli Stati Uniti che ci fa dire che lo spiritismo nasce con le sorelle Fox, che nello stato di New York per prime riescono a buggerare una serie di persone, sono tre sorelle molto giovani, imparano a far schioccare le dita dei piedi, quindi provocano dei suoni misteriosi in una stanza, e questa cosa poi perde parte, prende una sua indipendenza. In realtà in Europa le evocazioni di spiriti sono antichissime. Io faccio il caso di questa Carlotta Cerrino, che fa apparire lo spirito di Maria Clotilde, che era la madrina di Carlo Alberto, e il suo obiettivo è arrivare al re, vuole far vedere al re fisicamente davanti a lui il fantasma della sua madrina, che in quel momento è in processo di beatificazione. Quindi non è spiritismo questo, è chiaramente un'evocazione, si chiamava necromanzia perché era l'uso della morte per fare previsioni, per conoscere le cose. Lo spiritismo classico con il tavolino che si muove o con il cursore che si sposta sulle varie lettere si fa risalire alla seconda metà dell'Ottocento, ma contatti con i defunti. Io faccio il caso della strega di Endor che nella Bibbia fa esattamente questa cosa, ed è anche il fatto biblico che alcuni teologi cattolici dicono: beh, gli spiriti si possono evocare tecnicamente, non si possono evocare eticamente, cioè separano il punto di vista materiale dal punto di vista morale. Si possono, quindi è possibile, è una cosa ammissibile dal punto di vista tecnico, non è ammissibile dal punto di vista, ti devi confessare se lo fai, per cui è un'interessantissima filo e risale perché c'è questo fatto biblico, quindi sono costretti ad ammettere che anche Re Saul si è rivolto a una strega, tant'è che poi nel 700, quando Robertson a Parigi evocherà dei fantasmi, chiederà a sua moglie un aiuto in scena e la moglie interpreterà la parte della strega di Endor. Lui era un ex prete spretato, quello era l'immaginario della Bibbia, e quindi l'idea di avere la moglie dell'ex prete che fa la strega biblica, insomma, era veramente un mix che sui giornali aveva ripercussioni pubblicitarie super interessanti. Poi lei resta incinta, non può più andare in scena, chiamano un ventriloquo per allestire le fantasmagorie. Lo racconto tutto nel capitolo su Carlotta, chiedendomi come diamine facesse a far apparire e a convincere Carlo Alberto che quell'apparizione lì era sua madrina. Maria Clotilde di Borbone. Non c'è altro? Non ci sono altre curiosità? Se non c'è altro, chiediamo. Ah, incantagioni non è un neologismo, è una parola che viene usata nel 1850 sui giornali per descrivere che cosa facevano gli illusionisti in scena. Visto che è una parola così strana, alcuni dicono: ah, che bello, la stagione dell'incanto. E a me è piaciuta così tanto questa spiegazione che annuisco quando la sento. Sì, è bello, molto bello. Però è una parola che veniva davvero usata, e viene usata questa tripletta: fattucchierie, incantagioni e gherminelle. A me piacevano tutte e tre. Gherminelle sulla copertina di questo libro sembrava un vezzeggiativo che prendesse per il culo le protagoniste, non mi piaceva. Fattucchieria era bello, incantagioni secondo me ha qualcosa che è proprio di quell'anno. Molto efficace. E allora niente, questo è... Ma da dove viene, scusa? Da un giornale. Se fosse una crasi tra due parole, invece... Cioè tra incantesimi e stagione, comunque non lo so, cioè... Dubito che ci sia la stagione dentro. No, è un altro modo di derivare da la desinenza azio latina. Cioè, sì, è come l'incantesimo, come libagione, okay, invece di libazione, certo. È così, è un modo oggi suona aulico, però sì, comunque era un modo di una desinenza che si usava. Incantesimi avrebbe fatto pensare più al soprannaturale. Incantagione invece è il risultato dell'atto di incantare, che non necessariamente è soprannaturale. Quindi... Ludovica mi fa notare che la copertina rimanda un po' alle streghe. Non parliamo di streghe, parliamo di appunto sibille moderne che apparentemente usano la scienza, sì, ma che però per cui sono tutte storie che partono da fine Settecento e vengono in avanti. Anche se la copertina è un'incisione del 600 perché era particolarmente carica. In basso a sinistra c'è un mazzo di carte, quindi ho detto beh, c'è pure quello. Purtroppo si vede poco, ma se sollevate la copertina in plexiglass si vede nell'angolo in basso. Di nero però. E quindi sì, c'è un asso di picche. Sì, c'è un 3 qui, insomma. Anche le carte da gioco, per cui c'è di tutto su questa copertina. E come dicevamo, c'è anche il secondo libro, Incantagioni, il dossier, che è riccamente illustrato, c'è anche lo spartito che è della composizione di Ersilì, e ci sono alcuni gustosi testi d'epoca riportati proprio dalle gazzette d'epoca, tradotte nel caso di giornali francesi e invece proprio con l'italiano dell'epoca nel caso di giornali italiani, molto divertenti anche come testimonianze, insomma comunque tutte fonti primarie che Mariano ci mette a disposizione come extra una volta finito il libro. E inaspettatamente il pezzo sull'orgasmo, perché è sparito dal web. Io me l'ero salvato, quindi l'ho tradotto e ripubblicato lì, ho chiesto... permesso. È sparito dal web? È sparito dal web, è morto il blog di Castelli Crook, gli ho chiesto il permesso di farlo, gliel'ho tradotto, e quindi è sopravvissuto lì. Perché lo cito nel libro con il link che non funziona più. Mi spiaceva. È significativa questa cosa. Paio, scompaio. Non la vogliamo vedere, noi maschi. Grazie a tutte e tutti. Grazie. I libri sono alla cassa, ti rivolgo.